Lei non vuole stare con te, no, no, no. Vuole un bad boy che la smuova un po'. Fumare questo e bere quello lì. Amo, sembriamo usciti da Chernobyl. Però mo lei non vuole andare via. Ha messo le tende a casa mia. Scusa. Dice che lavora in agenzia. Gli occhi rossi non sono allergia. Tipo sì, non sono mai sazio. Baby, sono in chilo come un pazzo. Che vedrai, non facciamo un cazzo. No, vedrai, non facciamo un cazzo. Chiamo Piero al cellulare. Non risponde, scrivo, vieni a prendermi che qua no, no, no, no, no, non so più che fare. Questa vuole andare al mare. Non smette di parlare allora. Tiro quella, fumo questa fino a quando non mi sento compromesso. Io sto zitto, guardo il soffitto, però mi sa non accorto il nesso. No, frate, rispondimi adesso. Fanculo. Questa è la mia vita, non è un gioco. Quindi baby, lasciami da solo. Solo Dio può darmi il suo perdono. Perdono, perdono. Non voglio una drogata, baby, già i miei amici. Non compro una macchina, la prendo in leasing. Non sapevo cos'è una partita IVA. Senza una lira, ora un doppio IBAN. Lei dice che mi ama perché non mi conosce. Puoi trovarmi strada o fra le sue cosce. Non farmi domande, non ho le risposte. Bevo sto sciroppo, non è per la tosse. Oh, tra poco se muovemo arriviamo per le 6, 6 e un quarto massimo stiamo lì. Stiamo a fare la trita, a fare il drop,